Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Questo è Ferry Boat e io sono il traghettatore Insergante, in viaggio verso l'economia sociale. Questa puntata è dedicata... Beh, era già difficile intitolare questa puntata, Mobile News, Cyber News. C'è in effetti attraverso il digitale, sulla rete, e non solo sulla rete, ma ormai anche sulla rete mobile, quindi sui telefonini, un tale traffico che non si fa in tempo ad aggiornarsi, che ti cambia il quadro. Fatto appena in tempo a capire cos'è Facebook o come funziona, che ti ritrovi con Twitter, che è un altro sistema, probabilmente lo capiremo nel corso di questa puntata, analogo a Facebook, ma che si muove più rapidamente attraverso i telefonini, che ti cambia le carte in tavola. Anche in Italia c'è un'attenzione sull'informazione, comunicazione e intrattenimento, su questo misto di passaggio di informazioni che non è più definibile e inquadrabile in compartimenti stagni come fino a pochi mesi, anni fa era possibile fare. E secondo uno studio, Andrea Rangone è responsabile scientifico dell'Osservatorio Mobile Content e Internet della Scuola di Management del Politecnico di Milano, lunghissimo titolo Andrea Rangone. Secondo il vostro studio, buongiorno intanto, buongiorno. 7 milioni di utenti nell'ultimo anno, immaginiamo il 2008, hanno visitato i social network, ma sarebbero quasi o più di 13 milioni di italiani che si muovono nel mondo digitale, così diciamo in maniera vaga, anche attraverso giochi, musica, video, eccetera, è così? Sì, assolutamente così. In realtà il nostro studio mette in evidenza un fenomeno che ormai è ben radicato negli italiani, cioè il fatto che gli italiani utilizzano il loro cellulare per fare tante altre cose, oltre che per parlare e mandare gli sms. Lo utilizzano anche per fruire appunto di contenuti digitali di varia natura, che significa aggiornarsi, ricevere informazioni magari basate su sms, scaricarsi video, musica, giochi, ecco, cose di questo tipo. E quando dice italiani, ecco, cerchiamo di capire meglio di quali italiani stiamo parlando, evidentemente non di tutti, un ultra ottantenne, faccio fatica a vederlo con telefoni, no? Allora, quando parliamo di 13 milioni di italiani che hanno comprato almeno uno di questi contenuti via cellulare, intendiamo la popolazione complessiva. In realtà c'è una forte polarizzazione verso la fascia più giovane, in particolare verso la fascia fra gli 11 e i 24 anni, ecco. Però è vero che invece magari non l'ultra ottantenne, ma anche la persona più adulta, alcuni di questi servizi li utilizza, li paga anche. Pensiamo solo al servizio di aggiornamento via SMS per informazioni finanziarie o per news. Ecco, voi li avete definiti, avete definito mobile site. Surfer, giusto? Certo. Questi personaggi, che vuol dire letteralmente surfer, quello della tavola sulle onde, no? Quindi che si viaggia sul mobile, così, no? Sì, allora con la parola mobile surfer esattamente noi indichiamo in realtà quella quota parte di questa popolazione che utilizza il cellulare proprio per fare una cosa specifica, che è navigare il web, quindi utilizzare internet. Ecco, per cui quest'anno abbiamo proprio rivelato come stanno aumentando molto gli italiani che utilizzano sempre di più il cellulare anche per navigare internet, il che significa per frequentare quei tipici siti che attraverso il proprio PC e la connessione di casa tipicamente già utilizzavano, però lo fanno questa volta col proprio cellulare. Vedo dalla ricerca che almeno in questo abbiamo un primato non contestabile, non è il primo credo nella telefonia portatile, noi siamo al 41% come penetrazione rispetto ad una media europea del 32, cioè questo telefonino è proprio una delle manie degli italiani. È assolutamente così, mentre lo sappiamo tutti nel mondo diciamo PC-centrico, quindi nel mondo dei PC, ecco, l'Italia non brilla rispetto a tanti altri paesi anche europei, in realtà per tutto quello che riguarda il mondo cellulare-centrico, così ci piace chiamarlo, in realtà noi abbiamo tanti primati. Uno dei primati è proprio quello che siamo il paese in cui la penetrazione della, chiamiamola, banda larga mobile, no? Quella famosa basata su MTS è la maggiore di tutte, fatta eccezione per il Giappone e la Sud Corea. Un altro primato è che siamo il paese in cui si comprano di più i contenuti digitali di cui parlavo prima attraverso cellulare. Ecco, per cui è importante adesso in questo momento di convergenza, no? In cui di fatto il cellulare sempre di più si apre anche al mondo internet e alla possibilità di navigare sul web, ecco, è importante che noi sfruttiamo questo punto di forza che come paese abbiamo, come popolazione abbiamo, per così forse riappropriarci un pochino di più più, ecco, anche del tradizionale mondo del web e dell'internet, che non ci ha visto proprio brillare nello scenario internazionale negli ultimi anni. Grazie Andrea Rangone, e in effetti mentre ci spostiamo, ma non di molto perché andiamo a parlare con il responsabile della ricerca di questo osservatorio, adesso chiediamo a Filippo Renga anche di spiegarci come funziona, mi piaceva sottolineare che, le ultime parole che diceva Andrea Rangone, il famoso digital divide, cioè il divario digitale che ci ha contraddistinto, gli italiani sono più indietro rispetto all'universo europeo in generale, più evoluto sui temi del digitale, della diffusione di internet, che in realtà con l'arrivo del mobile, del web portatile, questo divario, come avete sentito, potrebbe addirittura non esistere più. È di una tale rapidità il cambiamento nell'universo digitale, Filippo Renga, buongiorno. Buongiorno. È di una tale rapidità che uno si chiede come possa un osservatorio come il vostro, il Politecnico, riuscire a mantenere l'orientamento, perché è veramente incredibile, basta un nuovo prodotto, Twitter, l'ultimo arrivato, e tutto può cambiare. Sì, assolutamente, questo mondo è abituato a dinamiche estremamente interessanti, estremamente veloci. E proprio uno dei fenomeni più interessanti, estremamente interessanti, è quello dei mobile social network, che ha visto evoluzioni estremamente forti nell'ultimo anno. Come possiamo vedere anche ad esempio con casi come sono state le proteste in Iran o in Moldova, o in casi di eventi particolari come il terremoto in Abruzzo o gli attentati in India, il telefono cellulare è stato utilizzato come strumento di aggregazione e condivisione sociale anche attraverso i mobile social network, e questo è stato impressionante vederne le dinamiche. Stiamo parlando, Filippo Renga, del nuovo fenomeno dopo quello di Facebook globale, che è Twitter, cioè sostanzialmente, se non ho capito male perché non lo uso, Twitter è il Facebook del telefonino, dell'SMS. Sì, Twitter è un modo per condividere, utilizzando proprio le caratteristiche specifiche del telefonino, immediatezza e anche rilevanza rispetto al contesto, e questo è anche uno dei punti di forza, proprio i messaggi, i 140 caratteri, i pochi caratteri dell'SMS che consentono un'interazione immediata e veloce e irrilevante. E questo sicuramente è stato uno degli elementi che ha portato al successo di Twitter. Ecco, lei mi faccia capire una cosa, perché forse lei può, essendo responsabile della ricerca dell'osservatorio Politecnico sul mobile e su internet, che cosa vanno cercando i milioni di italiani che abbiamo sentito poco fa, anche la maggior parte giovani, si attaccano davanti al PC e chiacchierano, giocano e si scambiano informazioni su Facebook e adesso su Twitter. Cosa vanno cercando? Gioco? Informazione? In realtà non vanno a cercare niente di nuovo, vanno a cercare quelle medesime relazioni sociali che avevano, a cui trovavano soddisfazione con altre occasioni, come potrebbe essere semplicemente un incontro bar, attraverso internet, i canali digitali, per cui internet e il mobile danno una soddisfazione in maniera differente, perché gli strumenti lo consentono, e conseguentemente cercano divertimento, cercano relazioni con altre persone, cercano anche condivisione di esperienze e di contenuti. E invece voi, come osservatorio, perché è nato e qual è l'obiettivo dell'osservatorio? L'osservatorio è nato proprio perché questi qui sono fenomeni estremamente interessanti e in qualche modo vanno capiti sia da parte di chi gestisce questi servizi, sia da parte di chi in qualche modo viene a relazionarsi. Perché? Perché sottostante ci sono dei cambiamenti importanti, a livello sociale, e conseguentemente ci siamo preoccupati di capire cosa stanno portando questi servizi all'interno dei comportamenti di uso degli italiani. Sono le informazioni che girano molto più velocemente e anche in maniera assolutamente indifferenziata. Sì, nel senso che in qualche modo proprio gli strumenti cambiano di condivisione e conseguentemente le informazioni, per grazie alle tecnologie digitali, vengono scambiate molto più velocemente, e questo porta a costruire nuove tipologie di relazione che devono capite, perché in questo momento in realtà è semplicemente con l'uso si stanno vedendo comportamenti differenti, evidentemente bisogna avere una coscienza migliore di come questi servizi procedono. Grazie Filippo Renga. Come notate è anche divertente, per certi aspetti forse anche tenero, accorgersi di come fior fior poi di esperti, in questo caso di accademici, avete forse notato una punta di imbarazzo quando si parla del futuro, perché in realtà è davvero imperscrutabile, c'è una tale rapidità di cambiamento che riuscire a prevedere e poi avere il coraggio di farlo, cosa potrebbe accadere da qui a 3 anni sul mercato, è francamente inutilmente rischioso. Così come è difficile capire se passerà o meno la linea di Murdoch, perché adesso il punto qual è? Lo scambio di informazioni è anche di tipo giornalistico, cioè i giornali, i siti passano dal telefonino mobile e quindi la diffusione delle informazioni, alcune spontanee come nel caso citato dell'Iran, altre invece sistematiche, quella dei giornali e sulla cronaca, passano dal telefonino e ci si legge tranquillamente il giornale senza passare dall'edicola. Questa è la verità, che se aggiunge alla situazione di crisi generalizzata del settore diventa problematica. Allora Murdoch dice proviamo un attimo a vedere se si può far pagare l'informazione dal sito, servirebbe a migliorare i bilanci. Marco Massarotto di Agacure ha scritto anche un libro sull'universo del digitale. Marco Massarotto, buongiorno. Buongiorno Enzo. Ci puoi aiutare forse a capire, e questo sì perché dobbiamo saperlo, se dobbiamo abituarci a leggere i giornali a spizzichi e bocconi attraverso il telefonino o più comodamente il PC, o se dobbiamo prepararci ai nuovi mondi a pagamento dell'informazione digitale. Ma infatti sugli strumenti poi sta arrivando in Italia anche l'e-reader, no? L'e-book reader, c'è cioè un progetto di test della stampa, ci saranno di altri giornali, quindi io credo che... Cioè sarebbe, scusaci, perché ci hai incuriosito. La stampa ha lanciato un mese fa l'Iliad, un lettore digitale di giornali con il suo abbonamento, con dei PDF ottimizzati che vengono ricevuti ogni mattina e si leggono con un lettore appunto digitale che consente di portarlo con sé, portare con sé anche centinaia di libri oltre al giornale, i propri PDF, documenti di lavoro, scriverci sopra, mantenere gli appunti. È un progetto sperimentale simile a quello che il New York Times sta facendo con il Kindle di Amazon, e parallelamente è un terzium generis, diciamo, della consultazione digitale, no? Il computer, l'iPhone, i telefonini, gli smartphone ormai consentono di leggere in modo molto agevole le notizie di RSS, ma c'è anche questo. Poi quale sarà la piattaforma che si affermerà, credo, è difficile dirlo, sicuramente sarà digitale, se posso dare la mia opinione, quindi abituarsi a una lettura digitale è una necessità, questa vera, ecco. Senz'altro. Altro discorso è... Sì, ti interrompo, scusami, perché dobbiamo, a proposito di informazioni, volevo solo non perdere la suggestione del momento. Io sono di una generazione, non sono più giovanissimo, ma insomma neanche un anziano, la generazione del cappuccino, caffè e giornale destinata a essere clamorosamente rivista, a quanto pare. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Rieccoci in studio, questo è Ferry Boat, io sono Enzo Arganti, il traghettatore. Marco Massarotto, allora è chiaro che tu sei, si capisce da come parli, da quello e da chi citi, un fautore dell'informazione digitale, dell'informazione da PDF, però non sei l'unico ed è il mercato che si sta spostando, secondo te, in quella direzione in maniera, come dire, inevitabile? È l'informazione che ormai è debordante, arriva da qualunque sorgente, no? Twitter, noi ci occupiamo di rassegne stampa digitale, comunicazione digitale, io vedo nei monitoraggi che facciamo per i nostri clienti che il giorno prima che la notizia rompa, faccia break, no? Nella stampa, nei blog, la fa su Twitter, no? Dove chi Twitter non ha bisogno di tutto un processo di certificazione della notizia di cui hanno giustamente bisogno i giornalisti professionisti, piaccia o non piaccia, fatto sta che i giornali arrivano il giorno dopo rispetto a Twitter. Ma è celebre anche il caso degli attentati di Bombay di qualche mese fa, in cui Massimo Russo di Cablogrammi di Repubblica disse: ma se volete la vera diretta andate su Flickr, che è lo YouTube delle foto, per capirci, no? Perché la gente col telefonino fotografava il Taj Mahal, gli hotel di Bombay, caricava in diretta le foto e quella era la diretta più diretta che si possa immaginare. Poi dopo c'è lo spazio per l'approfondimento, per l'aggregazione delle notizie, quindi forse la monetizzazione, i micropagamenti passano passeranno di là, faccio più fatica a immaginare la monetizzazione del micropagamento sulla notizia to court, che ormai è un bene, è considerato una commodity dall'utente, no? La trova all'incrocio delle strade, no? I giornali ormai ci vengono già regalati, quindi il valore forse è nell'approfondimento e, se posso dare uno spunto, uno stimolo, nell'aggregazione. Tina Brown, ex direttrice del New Yorker di Vanity Fair, ha aperto un aggregatore online che si chiama The Daily Beast, che ti dà il foglietto come quando andavi a scuola, le 10 cose da sapere oggi, i 5 punti di vista importanti oggi, no? Quello è un grosso valore in un mondo iperinformato e dove a me interessa sapere queste 5 cose qua al mattino, no? Cioè di cosa si parla stamattina. Ecco Marco, ti devo interrompere con dispiacere perché ci sono altri in lista d'attesa, con dispiacere perché devo dire che apri degli squarci nel mondo dell'informazione digitale che sono davvero esaltanti. Un'ultima battuta prima di chiudere con te è il tuo libro, ci vuoi dire come si chiama e chi è l'editore? Libro si chiama Internet PR, come Public Relations, l'editore Apogeo, e ecco, noi un po' questo salto nel mondo del digitale, in queste nuove logiche orizzontali, l'abbiamo fatto, no? Siamo quello che una volta forse era l'agenzia di relazioni pubbliche o l'ufficio stampa tradizionale, oggi nel mondo dei blog, dei social network, le dinamiche cambiano un po' in questo modo, e questo è quello che è scritto nel libro, quello che facciamo, grazie a te Enzo. Questa lettura orizzontale, professor Massimo Marchiori, docente di web semantico all'Università di Padova, è corretto? Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. È corretto, questa è la tua definizione, web semantico? Sì, io direi solo web, perché ormai il web è una cosa talmente grossa che limitarla alla semantica, però sì, tra le varie cose è interessante. Cioè. È talmente grosso però che immaginare un professore di web, uno non sa da che parte prenderti, se fosse solo quello, no? Sì, infatti io devo dire, passo anche troppo tempo a cercare di rimanere aggiornato costantemente. Una volta era facile, adesso che il web è diventato un mondo a sé stante è sempre più difficile giorno dopo. Ecco, io ti ho coinvolto sul tema che abbiamo chiamato mobile news, ma potevamo chiamarle in mille modi, perché ho una personale teoria che vorrei abbandonare definitivamente dopo questo colloquio e rafforzare. Dopo aver visto anche nascere, ho letto della nascita di Wolfram Alpha e comunque dei motori di ricerca intelligenti che rispondono a domande, che in qualche modo interagiscono col navigatore, mi sono fatto un'idea da giornalista, e che da qui a poco tempo, forse già adesso, non è più necessario avere una quantità di informazione che arriva sulla tua scrivania o sul tuo PC, ma che sei tu che vai a digitare su questi motori la parola del soggetto o del tema che ti interessa e automaticamente ti dà tutte le informazioni necessarie e sufficienti. Sì, in teoria sarebbe una bella cosa, solo che non è ancora possibile ora. Cioè, diciamo che adesso siamo un po' alla preistoria. Fra 100 anni guarderanno a noi come preistorici, però adesso la figura del giornalista c'è ancora e non è ancora possibile. Perché cose come Wolfram Alpha sono un po' come la prima ruota che è stata inventata dai primitivi, diciamo così. Cioè, alla fine si andrà verso una direzione stile Star Trek, se vogliamo. Ci sarà il computer, o anche senza scriverlo alla tastiera, semplicemente parleremo, chiediamo quello che vogliamo e ci ritornerà l'informazione. Adesso siamo ai tempi dell'età della pietra, perché questo nuovo motore di cui si è parlato, Wolfram Alpha, comincia un po' con questi nuovi concetti, ma non c'è ancora. Tu, e questo lo svegliamo agli ascoltatori, di motore di ricerca te ne intendi, e di te ho letto che sei stato in qualche modo, magari ci spieghi quale modo, fra i fondatori di Google. Sì, non fra i fondatori economici, ma diciamo per quanto riguarda l'idea, perché quando ancora i motori di ricerca erano una cosa nuova, fra virgolette, adesso la usano tutti e funzionavano molto male, secondo me. Io ho avuto un'idea che poteva farli funzionare molto meglio, ho dato quest'idea al mondo, per cui al pubblico dominio, pubblicandola alla conferenza internazionale del web, appunto, questo era attorno al 97-98, lì c'era Larry Page, uno dei due fondatori di Google, che è rimasto entusiasta, ha capito che i motori di ricerca sarebbero passati a una seconda generazione, per così dire, e siamo stati per tutta la durata della conferenza a discutere sui pro e sui contro di queste idee, e poi lui ha detto: guarda, cerco di farci un motore di ricerca, e l'anno dopo hanno fatto Google basato appunto su questa idea. E non ti hanno neanche dato lo 0,001% sarebbe stato sufficiente, no? No, non me l'hanno. Allora, devo dire che mi offrono costantemente, cioè Google mi offre costantemente posti, cioè, di lavorare con loro, ecco. Però finora ho sempre detto no, perché... Perché ti piace stare a Padova, all'Università di Padova, e insegnare ai tuoi studenti? Sì, anche perché, cioè, entrare dentro a una ditta, anche se si chiama Google, significherebbe anteporre gli interessi economici, perché alla fine Google è sempre una macchina da soldi, cioè lo scopo principale di Google è quello di fare soldi, significherebbe anteporre i soldi alla ricerca, agli studenti, a cose, insomma, che valuto un po' più importanti. Che sono un po' più importanti. Il tuo scopo non è fare soldi, ma è spiegare ai giovani che cosa in una battuta. Insegnare ai giovani che cosa in una battuta. Insegnare che si può fare tutto, perché il web veramente è una prateria immensa e ci si può veramente spaziare. Siamo veramente, come anche dicevamo prima, all'età della pietra. E questo è quello che mi ha affascinato. Io venivo da studi matematici, infatti ho la laurea in matematica, ma mi sono reso conto che mentre la matematica è una scienza consolidata, per così dire, cioè si può progredire ma di molto poco, il web è veramente all'età della pietra e cose come Google lo dimostrano, cioè basta avere un'idea buona e si può cambiare il mondo, e questo è l'aspetto affascinante. Grazie professor Marchiori, che ci lascia, come dire, in contrasto con noi stessi. Da un lato avete sentito una storia di normalità, c'è un professore, un giovane, si sente anche dalla voce, che vuole stare con i suoi studenti e che rinuncia al fascino e ai soldi della grande avventura americana con Google. D'altro canto, sentir dire, e intanto salutiamo Talita Malagò, che è segretario generale della AESVI, che adesso vi spiego che cos'è. Salve Talita. Buongiorno. Intanto d'altra parte ci spiega il professor Marchiori che internet e che Google sono ancora all'età della pietra, quindi evidentemente esistono in natura persone che hanno una visione, no, del mondo digitale che va talmente tanto al di là, e qui io non riesco a immaginare fino a che punto, da definire età della pietra Google. Talita Malagò invece è segretario generale della AESVI, vi ho detto che è l'associazione degli editori di videogiochi, del software videoludico e quindi di videogiochi. AESVI, in Italia non è che ci siano molte aziende di produzione di videogiochi, vero Talita? Ma ce ne sono alcune, a dire il vero, sia alcune multinazionali che hanno degli studi di sviluppo in Italia, come ad esempio Ubisoft, che ha gli Ubi Studios, e poi ci sono anche delle realtà abbastanza consolidate di sviluppo tutte italiane, come ad esempio il gruppo Leader, che ha un'impresa che si occupa solo di sviluppo e produzione, che si chiama Milestone e che ha sede a Milano. Ecco, cosa c'entrano i videogiochi in una puntata di Ferribot sul mobile news, eccetera? C'entra, abbiamo pensato che c'entri di pieno diritto, perché c'è un aspetto dei videogiochi che sta montando e speriamo che sia sempre ben visto dalle strutture pubbliche competenti, il progetto Games in School, che vuol dire usare i videogiochi come strumento educativo. Questa iniziativa è della AESVI? Si tratta di un'iniziativa che in realtà è partita dalla nostra corrispondente associazione europea, che si chiama ISPE e che ha sede a Bruxelles, però nella quale noi siamo stati coinvolti. È uno studio che è stato fatto tra il 2008 e il 2009, che ha coinvolto più di 500 insegnanti in tutta Europa, e ha cercato di tracciare un po', da un lato, il punto della situazione sulle esperienze di utilizzo dei videogiochi nelle scuole, e dall'altro ha cercato di capire quali sono le aspettative degli insegnanti rispetto all'utilizzo di questo nuovo mezzo nei loro programmi di insegnamento. Ecco, questo progetto per il momento non ha degli sbocchi concreti in classe, per intenderci. In realtà questo progetto già ha considerato dei casi che esistono in Europa, tra i quali uno italiano che è stato realizzato dall'Istituto Iprase a Trento. Però diciamo che siccome l'utilizzo dei videogiochi nelle scuole è ancora allo stadio embrionale, lo scopo dello studio è quello di partire dallo stato dell'arte per cercare di capire che cosa si potrebbe fare nel futuro, tenendo conto delle aspettative e delle esigenze sia degli insegnanti che dei ragazzi. Stiamo parlando di scuole elementari e medie, immagino, no? Cioè di scuole di secondarie? Stiamo parlando sia di scuole primarie che di scuole secondarie, perché in realtà questo studio ha preso in considerazione un po' tutto il sistema scolastico, quindi dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria. Noi sappiamo che ci sono anche degli esempi di utilizzo dei videogiochi nelle università anche in Italia, quindi questo studio si è svolto secondo due diverse fasi. In prima fase è stato somministrato un questionario a più di 500 insegnanti in tutta Europa per capire qual è lo stato dell'arte dell'utilizzo dei videogiochi. Circa il 70% degli insegnanti ha dichiarato di essere interessato ad utilizzare i videogiochi nei loro programmi scolastici. Questo è interessante perché non vi sono delle grandi distinzioni a seconda del sesso dell'insegnante, dell'età, dell'esperienza oppure della familiarità con i videogiochi o delle nuove tecnologie. E quello che emerge è che gli insegnanti hanno delle grandi aspettative verso l'uso dei videogiochi nelle scuole, come ad esempio... Posso andare avanti? Sì, no, non volevo interrompere, stavo con Vasco, semplicemente commentando che indubbiamente il videogioco, lo dice la parola stessa, sembra avere delle grosse chance di coinvolgimento e quindi dal punto di vista educativo. Certo, ci sono problemi anche strutturali, cioè ci vogliono le console, ci vogliono i computer, le scuole sono tante, gli studenti un'enormità, quindi non sarà facile, ma avere il 70% degli insegnanti dalla tua parte forse renderà possibile questo progetto. Certo. Dobbiamo ringraziare Talita Malagò, fare i complimenti per questa bella iniziativa, spingete, mi raccomando. Questo è Ferribot, siamo arrivati alla fine, alla prossima puntata da Enzo Argante.